Radio 24 Reportage. Al via l'alternanza scuola-lavoro. Presidi a caccia di aziende. Di Maria Piera Ceci. Sono Chiara, da quest'anno abbiamo iniziato con l'esperienza della scuola lavoro. Per quanto mi riguarda sono capitata in una banca. La prima settimana siamo stati nella sede centrale dove ci hanno spiegato un sacco di cose per quanto riguarda ogni aspetto della banca, e mentre la seconda settimana sono stata nelle filiali. E la parte, cioè sinceramente questo è un progetto che mi ha interessato tanto, cioè nonostante prima non avessi mai pensato alla realtà della banca e al fatto che mi potesse interessare per una realtà lavorativa, da quando ho visto soprattutto la parte di marketing, sinceramente mi è piaciuta tanto e l'ho trovata molto interessante, piena di cose che prima non mi sarei mai immaginata. Chiara, 16 anni, terzo liceo scientifico a Milano, alla sua prima esperienza, entusiasta a sentirla, di scuola lavoro. Sì, perché sono proprio loro i più contenti, gli studenti, per questa novità introdotta dalla legge 107, da tutti conosciuta come riforma della buona scuola. 200 ore obbligatorie di alternanza nel triennio dei licei, e questa è la novità più grande, e 400 ore negli istituti tecnici, fuori dalle classi, lontani dai banchi, per fare esperienze nelle aziende, negli enti locali, nei musei. Tutto molto bello a dirla così, anche se nelle scuole non sono pochi i problemi per una disposizione che è piombata sulle spalle dei dirigenti scolastici con pochissimo tempo per organizzarsi e senza prevedere alcuna progettazione. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi. Ma le maggiori criticità riguardano anzitutto la formazione degli insegnanti. Noi sappiamo che in genere gli insegnanti anche nei licei hanno accolto l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro come un fatto positivo. Quindi il problema è come formare questi insegnanti, che fino adesso sono stati semplicemente informati attraverso circolari, ordinanze, leggi eccetera, ma non c'è stato ancora un vero e proprio piano di formazione a tappeto che dovrà essere fatto a nostro parere al più presto. Ciò nonostante molte scuole, licei, ecco proprio ieri sera una mia collega, una preside del liceo classico di Trebisacce in Calabria, quindi nell'estremo sud, mi stava dicendo dell'esperienza estremamente positiva che il suo liceo stava sperimentando con la ASL locale, perché l'ASL aveva messo a disposizione personale, strutture e operatività per poter svolgere il progetto di alternanza scuola-lavoro. Molte scuole stanno ricorrendo a quelle che a me sembrano un po' degli escamotage, ad esempio utilizzare le ore che vengono già impiegate nell'orientamento, dirottandolo sull'alternanza scuola-lavoro, la simulazione d'impresa fatta in istituto. Insomma, questa iniziativa della scuola-lavoro non vorrebbe puntare anche al fatto che i ragazzi debbano uscire dalla scuola e andare sui luoghi per vedere come si lavora davvero? Sì, ma io sono d'accordo con lei, però teniamo conto di una cosa, che la legge 107 è una legge di riordino organizzativo, anche dal punto di vista della didattica, ma è una legge che ha bisogno, come ci insegnano gli anglosassoni, di 3-5 anni per dispiegare su tutta la sua potenzialità positiva. Ma i presidi la stanno vivendo come un'imposizione, come una scocciatura, oppure si stanno... Ma no, direi di no. Sentiamo molti nostri colleghi, che devo dire anche soprattutto di classici scientifici, che per usare un'espressione popolare stanno prendendoci gusto, nel senso che da una scuola tutta fatta, giustamente, però soprattutto sui libri, si passa a una scuola fatta sui libri ma sull'applicazione di quello che prevedono i libri, vale a dire una scuola che è aperta al mondo, insomma, non è uno sfruttamento di forza lavoro, l'alternanza scuola-lavoro, è un modo di dire ai ragazzi attenzione. Una delle cose importanti è quello che voi dovete imparare a lavorare in un ambiente nuovo e soprattutto imparare a lavorare in squadra, in team. Sono cose che nella scuola italiana non si sono viste molto spesso. Partenza dunque di tutta fretta per l'alternanza scuola-lavoro, senza formazione per gli insegnanti, con i dirigenti scolastici in generale disponibili a sperimentare nuovi progetti, ma anche in difficoltà a reperire aziende disponibili. Il sottosegretario al MIUR Michele Toccafondi. Allora, intendiamoci, per 30-40 anni in questo paese, quando si sentiva parlare di alternanza scuola-lavoro, era tutto bloccato, assolutamente bloccato. Quest'anno l'alternanza è sì obbligatoria e quindi difficile, lo sapevamo e lo ammettiamo, ma l'abbiamo inserita obbligatoria già da quest'anno e finanziata con 100 milioni l'anno, soldi già arrivati a gennaio a tutte le scuole, perché l'alternanza è utile. Le scuole si stanno muovendo È questo paese in generale che deve fare un passo culturale oltre l'ostacolo alternanza scuola-lavoro, non solo le scuole, ma il sistema produttivo, culturale, imprenditoriale, dell'artigianato, del turismo. Se tutto un mondo, tutto il paese fa questo passo in avanti, l'alternanza riusciamo a farla. L'abbiamo fatta, voluta, fortemente difesa e la stiamo seguendo perché è utile per i ragazzi. Fare esperienza e scuola a tutti gli effetti. La scuola è conoscenza ma è anche competenza. E le competenze si imparano anche in alternanza. Molti presidi però dicono siamo stati un po' abbandonati, dobbiamo andare noi a cercare le aziende, a volte si appellano anche ai genitori chiedendo di una mano. Noi una struttura al Ministero per cercare l'alternanza in tutte le scuole del paese non l'abbiamo e non la possiamo avere. Stiamo a fianco delle scuole, a fianco dei presidi, come MIUR, ma anche ben presto come Ministero dello Sviluppo Economico, come Camera di Commercio. Abbiamo firmato una ventina di protocolli d'intesa nazionale, il più importante con i grandi musei nazionali, con il Ministero della Cultura italiano, per dare la disponibilità di svolgere alternanza anche nei grandi musei italiani. È tutto nuovo, dopo 40 anni di blocco culturale e anche pratico, è chiaro che una certa difficoltà l'avevamo messa in conto e la stiamo affrontando insieme, Ministero, scuole, dirigenti scolastici e ragazzi, partendo dall'aspetto positivo, che l'alternanza è utile. Per questa alternanza scuola-lavoro, la mia scuola mi ha mandato a lavorare nella industria Fila, e ho imparato molte cose durante questo stage. Ho imparato a far la verifica e l'evasione di un ordine, a sbloccare commercialmente un cliente e a creare un listino di vendita in base al cliente che lo userà. Ho svolto molte attività come la compilazione di letter da mandare ai clienti in merito al reintegro merci. Questa alternanza scuola-lavoro per me è stata molto utile perché mi ha fatto capire un po' com'è il mondo del lavoro. Così ci racconta Sofia, anche lei al terzo anno di liceo scientifico a Milano, lei un'azienda che la segue in questa esperienza l'ha trovata, anche se dal lato delle imprese non mancano le difficoltà in questo progetto dell'alternanza scuola-lavoro. Ivan Lobello, vicepresidente di Confindustria con delega per l'education. È partito bene, compatibilmente bene, nel senso che nel nostro paese non abbiamo avuto una cultura dell'alternanza scuola-lavoro. Ovviamente non sarà un passaggio in cui in 6 mesi facciamo l'alternanza scuola-lavoro, però sta iniziando, il nostro sistema imprenditoriale è molto motivato su questo. Ecco, come sta reagendo? Cioè, lei che sente le aziende, stanno accogliendo i ragazzi? No, guardi, le posso dire una cosa, sto venendo da Torino, parlavamo di alternanza scuola-lavoro, c'erano tantissimi imprenditori in sala, quindi comincia ad essere un tema centrale che riguarda la capacità competitiva delle aziende e il futuro dei nostri ragazzi. L'alternanza scuola-lavoro garantisce ai ragazzi una prospettiva non legata solamente al tema dell'educazione ma anche al tema del lavoro, è l'elemento fondamentale. Dall'altro lato le imprese stanno comprendendo che questi ragazzi che stanno in aziende, che probabilmente alla fine del percorso scolastico possono tornare in azienda, sono un valore e un capitale umano fortissimo. Ecco, lei parlava di Torino, al sud per esempio è partita l'alternanza perché il tessuto produttivo ovviamente è un po' più in difficoltà. Ovviamente deve tenere conto delle differenze fra i settori produttivi, ma su questo tema in Confindustria si lavora da Bolzano a Ragusa. I presidi ogni tanto si lamentano, dicono siamo un po' nel caos, dobbiamo andare noi dalle aziende a sollecitarli. Si può fare un po' di più o è soltanto fisiologico perché è il primo anno? È un fattore fisiologico. Nel tempo, speriamo in tempi rapidi, tutte queste questioni si risolveranno tranquillamente. In Cecilia frequento il terzo anno di un liceo scientifico e al momento sto praticando l'alternanza scuola-lavoro. È un programma che trovo assolutamente ottimo in quanto comunque ti dà un'idea del mondo lavorativo. Mi trovo molto bene, anche perché trovo una cosa estremamente positiva il fatto di lavorare autonomamente come mi stanno facendo fare, nonostante siano compiti facili. Anche Cecilia è fra le fortunate che sta seguendo un percorso di alternanza scuola-lavoro in azienda. Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, non nasconde le difficoltà delle aziende, che però dice stanno facendo il possibile. Ma le aziende stanno dando un contributo molto forte, molto coraggioso. Ovviamente non è facile per le piccole aziende poter adattarsi ad avere dei ragazzi, quindi è un lavoro che va fatto progressivamente. Molte aziende non potranno farlo, ma noi stiamo organizzando in modo da facilitare questa relazione. L'alternanza scuola-lavoro è un processo molto lungo, noi oggi siamo agli inizi, peraltro in Lombardia hanno partecipato quasi il 25% dei ragazzi, quindi ci sono già dei risultati. Come sempre è nell'attuazione di queste cose che poi si riesce veramente a realizzare gli obiettivi di queste leggi, quindi dobbiamo lavorare tutti insieme. Diciamo che è lavoro in corso, non possiamo dire che tutto va bene, nel senso che stiamo lavorando. Lavoro in corso dunque con le aziende che a volte vengono accusate di essere un po' restie. Dipende dal tipo di aziende. Le aziende più grandi, le aziende non sono tendenzialmente abituate a questo tipo di processo che è tipico della Germania. Secondo me è molto più difficile un percorso del genere quando le aziende sono piccole. La Germania mediamente ha aziende che sono il doppio di quelle italiane per dimensione media. Quindi qui come lavorare su questo tema, peraltro noi vediamo una buona risposta di aziende medio-grandi e si sta espandendo, quindi è l'inizio di un processo. Ancora, le aziende vengono guardate con sospetto quando mettono piede nelle scuole o quando, come in questo caso, ospitano gli studenti. Ma qui c'è sempre la sensazione che si voglia utilizzare i ragazzi per lavorare nelle aziende, e questo secondo me ci vuole molto senso della realtà. Io credo che ogni scuola si debba porre il problema che i ragazzi che escono dalla scuola trovino un lavoro. Questo è un modo di pensare, che invece di pensare le scuole pensano a se stessi, i professori pensano a se stessi, ma pensare nell'interesse dei ragazzi. Il fatto che si pensi in termini di lavoro, secondo me è un enorme salto avanti. Dobbiamo mettere questi due mondi più vicini, senza pensare che uno sia nemico dell'altro, bensì che siano alleati. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.